2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 25 e 26 gennaio 2014. Bentornati al 2024, benvenuti se questa è la vostra prima volta. Questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Cerchiamo ogni settimana con i nostri esperti di capire come la tecnologia ci cambia la vita o come la tecnologia potrebbe cambiarci la vita, come potrebbe cambiare il modo di lavorare, il lavoro di tutti i giorni. Oggi parleremo della diffusione di internet, di progetti per diffondere la rete e soprattutto di fibra ottica, ma iniziamo con alcune parole che facevano parte di uno spot pubblicitario di 30 anni fa. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. La voce che avete sentito è quella di uno spot pubblicitario diretto da Ridley Scott, uno spot pubblicitario della Apple andato in onda il 22 gennaio 1984, quindi parliamo di 30 anni fa. Annunciava l'arrivo sul mercato del Macintosh il 24 gennaio, quindi due giorni dopo sarebbe arrivato questo nuovo computer della Apple. Beh, nel nome c'è sempre il riferimento ad una mela, perché la Macintosh è una nota, soprattutto negli Stati Uniti, noto tipo di mela. Poi il nome, lo spelling non è esattamente quello della mela per motivi prevalentemente legali con un'altra società che utilizzava questo nome, ma insomma di fatto lo spunto era stato preso proprio da una mela, quindi Apple significa in inglese mela e quindi anche non il primo computer, ma sicuramente il primo computer di successo della Apple venne chiamato come una delle mele più famose negli Stati Uniti. Allora, nello spot si vede un dittatore che parla ad una folla che lo guarda ipnotizzato, arriva un atleta che lancia un martello e distrugge lo schermo dal quale il dittatore sta parlando. E la voce dice: il 24 gennaio vi accorgerete, scoprirete perché il 1984 non sarà come il 1984. Il riferimento è al romanzo di Orwell, 1984, quindi al grande fratello che tutto controlla, e il riferimento era al grande fratello dell'epoca, cioè l'IBM, e il senso di questo spot era: sappiate che dal 24 di gennaio ci sarà un'alternativa, e quindi l'idea dell'Apple era quella di salvare il mondo dallo strapotere di IBM, di tutti i computer, di tutti i PC compatibili poi IBM, che il mercato poi ha dimostrato cominciarono a vendere tantissimo. Ma sicuramente questi 30 anni che molti in giro per il mondo stanno festeggiando dall'introduzione del Mac, che ancora oggi continua questa storia di successi dell'Apple, è interessante per vari motivi. Beh, sicuramente perché il Mac ha introdotto, o meglio, ha reso popolare, perché non era stato il primo computer ad introdurre, ad esempio, l'interfaccia grafica, quella alla quale siamo abituati noi tutti i giorni quando usiamo un computer, ma sicuramente ha dato un fortissimo contributo a rendere popolare questa interfaccia. E poi un'altra cosa che tutti noi utilizziamo ancora oggi, il mouse, e questo computer appunto rese popolare. Però va detto, e anche qui confermiamo una storia sia di Steve Jobs che della Apple, che sia l'interfaccia grafica sia il mouse non sono invenzioni della Apple, non sono invenzioni di Steve Jobs. Nel 1979 Steve Jobs andò in uno dei laboratori più famosi della Silicon Valley, direi forse il laboratorio che ha creato più cose che ancora oggi noi utilizziamo in Silicon Valley. Allora andò al PARC, il Palo Alto Research Center, centro ricerche della Xerox, che, ribadisco, ha inventato tantissime cose e aveva visto un mouse, un prototipo di un mouse e anche un'interfaccia grafica, e vedendo queste cose gli si accesero molte lampadine. Visto che alla Xerox non avevano capito l'invenzione, invece Jobs aveva capito la portata di quella innovazione, fu lui poi a introdurlo sul mercato. Tutto il resto poi è storia, e come dicevo poco fa, ancora oggi questa storia continua, perché ancora oggi i Mac vengono innovati e sono ancora, insomma, rappresentano ancora una forte innovazione nel settore dei computer. Bene, questo è 2024, noi ci occupiamo raramente di storia, adesso torniamo ai nostri giorni con alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Mentre la Corea del Sud continua ad essere uno dei paesi con i più alti investimenti in reti in fibra ottica, il governo di Seoul e l'industria si sono impegnati ad investire $1.5 miliardi per lo sviluppo dell'infrastruttura cellulare di quinta generazione. Allora, l'obiettivo è arrivare a superare il gigabit in download per utente, di attivare i primi test nel 2018 e lanciare i primi servizi commerciali nel 2020. Parliamo di quello che commercialmente verrà chiamato 5G. Ricorderete che all'inizio dell'anno abbiamo dedicato una puntata alla fine della pellicola al cinema. Il 2014 sarà l'anno di completo passaggio del cinema al digitale. La prima casa cinematografica a comunicare la decisione di abbandonare la pellicola per la distribuzione dei propri film è stata la Paramount negli Stati Uniti pochi giorni fa. A breve dovrebbero seguire le altre case e dagli Stati Uniti si passerà presto anche all'Europa. L'ultimo film distribuito da Paramount in pellicola è stato Anchorman 2, il primo solo in digitale è The Wolf of Wall Street. Una notizia che riguarda Milano ed Amazon: il negozio online americano ha lanciato per 39 codici postali dell'area milanese un nuovo servizio che si chiama Spedizione Sera, che permette di ricevere un prodotto ordinato entro mezzogiorno tra le 18 e le 21 dello stesso giorno. Quindi ordini la mattina, ricevi alla sera. Il costo dell'ordine in questo caso però è di 24 euro per consegna più 4 euro per ogni articolo addizionale. Per gli iscritti al programma Prime si paga 7 euro per articolo. Comunque interessante, perché questa è la tendenza degli operatori di commercio elettronico, cioè quello di rendere sempre più ravvicinati il momento della consegna rispetto all'ordine. Digital News. Sono, lo sapete, tantissimi servizi di musica in streaming, dai più noti Spotify o Deezer internazionali, oppure Kubo Musica di Telecom Italia. Poi ce ne sono tantissimi. Pare però che il genere sia attraente, cioè nonostante la competizione sia molto attraente, tanto che Beats Audio, che è nota per la produzione di cuffie, ha lanciato negli Stati Uniti Beats Music, un servizio di musica in streaming che cerca di indovinare i nostri gusti e pare ci riesca anche piuttosto bene. Sempre sul filone si sta buttando anche Kim.com, lo ricorderete, il personaggio piuttosto controverso, è famoso per Mega Video, che è implicato ed è ricercato dalla FBI, che ne ha chiesto l'estradizione verso gli Stati Uniti. Allora, ha mostrato l'anteprima di Baboom, il servizio di musica in streaming che verrà lanciato a fine anno. Negli Stati Uniti si discute dei prossimi e possibili danni economici che le rivelazioni di Edward Snowden sulla National Security Agency potrebbero provocare alle aziende americane per il loro stretto rapporto con l'intelligence. Allora, le aziende hanno cercato in tutti i modi di prendere le distanze, ed ora c'è anche chi tenta di offrire un servizio commerciale sulla scia di queste notizie. Microsoft, ad esempio, ha detto che molto presto offrirà agli utenti americani un servizio di cloud storage basato su server localizzati al di fuori degli Stati Uniti e quindi lontano dagli spioni della NSA. In teoria, però, Microsoft, che nel frattempo ha messo a segno una trimestrale con i fiocchi, ultimo trimestre 2013, fatturati in salita a $24.5 miliardi, utili a $6.5 miliardi. Mica male. Allora, mentre Windows soffre un po' perché è calato del 3%, beh, del resto le vendite di PC, insomma, sono quello che sono, vanno bene Windows Phone, Office 365, che ha 3 milioni e mezzo di abbonati, Surface e Xbox. Microsoft però dovrà fare i conti con le vendite in calo di Nokia, meno 29% nell'ultimo trimestre. L'ultima notizia riguarda Lenovo, che ha acquistato da IBM la divisione server per $2.3 miliardi. Lenovo, che oggi è il più grande produttore di computer al mondo, aveva acquistato la divisione PC di IBM nel 2005, compreso il famoso marchio ThinkPad. Adesso il primo argomento della nostra puntata. Allora, parleremo tra poco, vi farò sentire un'intervista che abbiamo realizzato con una persona che si occupa di realtà aumentata. Nel settore della manutenzione sicuramente ci sono delle prospettive molto interessanti, ma non solo. Allora, parliamo di realtà aumentata, cioè io guardo una cosa tipicamente con il mio smartphone o il mio tablet attraverso la fotocamera e quando la inquadro, così come quando faccio una foto, normalmente vedo quella cosa. Se sto inquadrando ad esempio un monumento, vedo quel monumento. La realtà aumentata è quella cosa che mi fa vedere sul display dello smartphone o del tablet qualche informazione aggiuntiva. Quindi io inquadro un monumento e, che ne so, lo smartphone riconosce il monumento e mi scrive sopra Duomo di Milano, oppure mi scrive dietro al Duomo di Milano a 100 metri c'è una biblioteca, eccetera eccetera. Questo è il concetto della realtà aumentata, cioè informazioni aggiuntive sulla realtà. Parliamo di realtà aumentata nel mondo dell'editoria, del giornalismo. Saluto Luca De Biase, che guida Nova, il Sole 24 Ore, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore, in edicola la domenica. Ciao Luca, bentornato. Ciao, ciao. Questa settimana, oltre a raccontare qualcosa ai nostri ascoltatori sull'argomento, insomma gli argomenti principali, c'è però una novità che lanciate proprio nel numero di domani. Eh sì, partiamo con il giornale aumentato. Giornale aumentato, che cosa sarebbe questo giornale aumentato? Beh, l'applicazione della tecnologia della realtà aumentata classica a un giornale che, naturalmente, essendo dedicato all'innovazione, vuole innovare. Quindi noi, con l'aiuto di un'azienda torinese che si chiama SEAC02, abbiamo personalizzato la applicazione e con questa applicazione consentiamo agli utenti di andare a leggere molte più cose sulle stesse quattro pagine della domenica. Allora, perché ricordiamo, c'è l'applicazione di Nova, che è sia per iOS che per Android. iOS Android si chiama Nova AJ, come Augmented Journal, siamo un po' fighini e quindi uno si scarica questa applicazione, alla domenica la apre, inquadra il giornale nei punti segnati da un otturatore con l'accento di Nova, insomma è quello che ti segnala le zone. Fa scattare qualcosa, cosa succede poi sull'applicazione? La telecamera si accende e tu vedi il giornale. Quando la telecamera riconosce un'immagine, una fotografia, un titolo che contiene dietro di sé dei contenuti aggiuntivi, li scarica, ti mostra direttamente l'articolo quando è un testo che quindi si può leggere, oppure un bottone se è qualcos'altro. Cioè, che è una delle applicazioni della realtà aumentata. Cioè, è assolutamente una delle applicazioni della realtà aumentata. Ci sono dei precedenti anche nei giornali. In Giappone ce n'è uno che mi piace un sacco, perché fa vedere il giornale del papà con gli occhi del bambino che lo accompagna nella lettura. Quindi un articolo per il papà, però guardato col telefonino si vede dal punto di vista. Fammi un esempio sul numero di questa settimana, che è il primo che sfrutta e utilizza la realtà aumentata. L'apertura è dedicata a una storia super interessante. Stiamo lanciando questi nuovi satelliti europei, il programma Copernicus, per monitorare l'ambiente. Sì. La storia di Giovanni Silos Labini lo racconta con il testo nella versione nella classica versione cartacea, e abbiamo delle immagini, animazioni che spiegano come funziona, e queste animazioni si vedono con lo smartphone. Beh, quindi oltre che, diciamo, interessante la lettura, è da provare perché è un'esperienza nuova questa. Sì, infatti dovremmo... L'applicazione è gratuita, giusto? L'applicazione è gratuita, dovremmo imparare a usarla meglio, insomma, cioè, no? A integrare i due linguaggi. Certamente abbiamo aperto una nuova dimensione della lettura di Nova. Bene Luca, grazie. In bocca al lupo anche per questa nuova app, perché di fatto l'applicazione si rinnova ed è nuova. Assolutamente, nel corso dei prossimi mesi poi continueremo a aggiornarla, aggiungere funzioni per renderla il più possibile integrata nella logica di una buona fruizione dell'informazione. Poi magari chissà, tutto il giornale diventerà aumentato, non solo Nova, chi lo sa. Tutto aumenta nella vita. Esatto. Grazie, a presto, ciao. Arrivederci. Noi facciamo una breve pausa, riprendiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Parliamo di realtà aumentata. Come dicevo poco fa, la realtà aumentata è quella cosa che serve per aggiungere informazioni, è una tecnologia che serve per aggiungere informazioni alla realtà. Un settore dove sicuramente ci sono delle prospettive molto interessanti per questa tecnologia è quello della manutenzione. Ci sono già aziende che stanno facendo prodotti e soluzioni, ma molte di queste innovazioni le vedremo nei prossimi anni. Ci dà qualche informazione in più Mauro Rubin, che è fondatore e CTO, quindi il Chief Technology Officer, colui che si occupa della tecnologia di JoinPad. È una tecnologia molto diffusa in alcuni settori, come quello del marketing e dell'advertising. Questo vuol dire che molte società investono soldi per fare delle campagne mirate, marketing, su alcuni prodotti, che poi queste applicazioni vengano utilizzate in modo giornaliero e costante dagli utenti è tutta un'altra questione. Ricordiamo brevemente, quando parliamo di realtà aumentata, che cosa intendiamo? La realtà aumentata è una tecnologia che ci permette di ottenere informazioni rilevanti come video, oggetti 3D e altri tipi di informazioni, immagini, sovrapponendo queste informazioni su degli oggetti, semplicemente osservandole con degli smartphone. Quindi possiamo ottenere informazioni rilevanti da qualsiasi cosa, semplicemente osservando un oggetto con uno smartphone. Quindi faccio delle ipotesi, io sono davanti alla vetrina di un negozio, se ho l'applicazione magari di quel negozio specifico, posso, puntando appunto lo smartphone, la videocamera dello smartphone, posso ottenere delle informazioni aggiuntive dalla vetrina, che ne so, magari prezzi che non ci sono. Assolutamente sì, semplicemente osservando la vetrina, poniamo caso che ci sia un particolare oggetto, posso ottenere informazioni su quell'oggetto, su dei video correlati, sul parere degli utenti a proposito di quell'oggetto e così via. Sì, un'altra applicazione, che ne so, siamo in una piazza di una città, puntiamo il nostro smartphone contro un palazzo e lo smartphone ci dice che cosa c'è dentro quel palazzo. Noi vediamo il palazzo nel display dello smartphone e con l'aggiunta di informazioni. Voi vi siete specializzati in un settore che è quello della manutenzione. Ci spieghi che cosa c'entra la realtà aumentata con la manutenzione, e la manutenzione di che cosa? Ok. Quello che noi abbiamo fatto è differenziare le applicazioni in realtà aumentata su un preciso settore, che è quello appunto della manutenzione. Che cosa facciamo? Immaginate di avere un oggetto di cui non sapete assolutamente nulla, immaginate di avere un tablet o un paio di occhiali particolari e osservare questo oggetto. Automaticamente tutte le informazioni su come operare, montare, smontare questo oggetto verranno visualizzate sul vostro campo visivo. Questo vi permette di avere una conoscenza, come se fosse una sorta di Wikipedia automatica visiva direttamente sugli oggetti, e imparare a capire come operare con loro in pochissimi secondi. Uno potrebbe dire, vabbè, ma il manutentore dovrebbe conoscerli gli oggetti, no? Assolutamente sì, però in un'azienda, come sappiamo, gli oggetti, la manutenzione è in continuo aggiornamento, perché abbiamo nuovi materiali, nuovi sistemi, e questo occupa molto spazio, sia risorse economiche che risorse di tempo nelle aziende. Con un sistema come il nostro possiamo offrire una condivisione a 360 gradi su tutti gli apparati, tutti i prodotti di una determinata azienda, e condividere queste informazioni su tutti gli operatori sul campo. Ma non solo, in futuro noi prevediamo che anche le soluzioni che arriveranno dal campo, quindi le nuove soluzioni a determinati problemi che usciranno fuori direttamente da degli operatori sul campo, potranno essere inserite sul sistema e condivise in tempo reale con tutti gli altri operatori sul globo. Ci fai un esempio di che cosa succede già oggi, immagino, con un vostro sistema utilizzato da un operatore, cioè l'operatore arriva sul luogo dove deve fare manutenzione e cosa succede? Allora, tira fuori il suo tablet, attiva un'applicazione, osserva l'apparato attraverso il tablet e la camera del tablet riconosce l'oggetto e fornisce tutte le informazioni su che cosa deve fare l'operatore quel giorno. Quindi può sapere dove si trova quel tablet, se si trova geograficamente distante dall'asset su cui deve operare, oppure può ottenere informazioni direttamente sul tablet che sta osservando, ok? Quindi può avere una lista di operazioni già preimpostate e fornite dalla sede operativa che ha preventivamente pianificato il suo intervento. Vengono già utilizzate queste soluzioni? Allora, attualmente abbiamo dei progetti pilota che sono partiti e le stanno utilizzando. Quindi sono delle aziende, stiamo lavorando e stiamo impostando dei discorsi a livello internazionale sul gas and oil e altri tipi di società e stanno avendo un discreto successo. Che tipo di evoluzioni pensate, oltre al tablet? Tu prima hai accennato a degli occhiali. Sì, noi pensiamo che l'utilizzo di occhiali per la realtà aumentata sia assolutamente determinante per gli sviluppi futuri. Noi sappiamo che attualmente Google Glass ha aperto la strada citando ovviamente il concetto di realtà aumentata, sebbene Google non faccia in realtà, il prodotto di Google non faccia esattamente realtà aumentata, ma contestualizzi il luogo in cui sta operando una determinata persona con delle informazioni. Pensiamo che sicuramente gli occhiali faranno la differenza, perché avere delle informazioni direttamente sul proprio campo visivo, lasciando libere le mani, possa aprire a diverse soluzioni e semplificare, cambiare radicalmente il nostro modo di lavorare. Ma siamo abbastanza certi che il big player che importerà questo cambiamento non sarà Google. E qua tutti a fare ipotesi. Chi sarà questo big player? Facciamo delle ipotesi. Potrebbe essere Epson, ad esempio, che anche recentemente ha presentato la versione aggiornata dei Moverio. Oppure c'è un'azienda che si chiama Meta, che usa sempre i Moverio e offre una soluzione per la realtà aumentata. Potrebbe essere Innovega, che ha una soluzione che combina occhiali e lenti a contatto. Chi lo sa, poi ci saranno anche nuovi player. Sicuramente questo è un settore molto interessante, ma anche in questo caso va trovata la cosiddetta killer application. Bene, adesso cambiamo argomento. Questa settimana 2024 torna ad occuparsi di un tema che definirei più che un tema, il tema più importante che riguarda il futuro delle telecomunicazioni in Italia, ma allargherei un po' il quadro, il futuro della nostra economia, del sistema paese, della società, della pubblica amministrazione. Sapete, lo diciamo da molto tempo, che oggi se esiste un'infrastruttura sulla quale uno Stato, un paese deve investire è la rete di telecomunicazione. Lo stanno facendo molti paesi nel mondo, soprattutto alcuni paesi asiatici stanno investendo risorse molto, molto importanti, perché oramai è un dato piuttosto conosciuto quello della relazione che c'è tra l'investimento in infrastruttura digitale, quindi poi in definitiva per portare internet ad alta capacità nella pubblica amministrazione, nelle aziende, a casa dei cittadini, c'è un rapporto tra tutto ciò, tra la diffusione di internet e lo sviluppo dell'economia, quindi il prodotto interno lordo. Ci strappiamo i capelli per cercare un modo per salire dello 0,1% del prodotto interno lordo, bene, investendo nelle infrastrutture altro che 0,1%, insomma la crescita del prodotto interno lordo grazie all'economia digitale sarebbe molto forte. Economia digitale che non è un'economia fine a se stessa, ma è un'economia che è al servizio di tutto il resto. Quindi lo diciamo spesso, anche le industrie pesanti, anche le industrie che lavorano il ferro, hanno bisogno della fibra ottica, della rete di telecomunicazioni. Comunque di qualsiasi cosa faccia, metta in comunicazione, in collegamento queste aziende con il resto dell'economia. Saluto Simone Bonannini, che è amministratore delegato di Interroot Italia. Benvenuto a 2024. Grazie. Noi ci vediamo abbastanza spesso a convegni sulle telecomunicazioni. A volte questi convegni sono molto frizzanti, a volte sono un po' noiosi, ma sicuramente una cosa che chi si occupa di telecomunicazioni dice spesso, e io ho sentito anche te dire spesso, è che i vostri clienti, poi spieghiamo quali sono i vostri clienti, hanno una necessità incredibile, divorano capacità, traffico internet, vogliono collegamenti sempre più veloci, sempre più capacità. Innanzitutto i vostri clienti sono? Allora, innanzitutto ti confermo che il livello di domanda di capacità di larghezza di banda fino a casa dell'utente finale è enorme. E chi sono i nostri clienti? Sono o gli operatori di telecomunicazioni o le grandi aziende. Gli operatori di telecomunicazioni poi rivendono il servizio di accesso ad internet o di connettività agli utenti finali, quindi alle abitazioni, alle case, al mercato residenziale. L'azienda invece lo utilizza per il proprio business. Che cosa ti posso dire? Da ormai una quindicina d'anni di osservazione dell'utilizzo, possiamo dire che ogni 5, 6, al massimo 7 anni si decuplica la domanda di accesso fino all'utenza, all'abitazione finale. Oppure all'azienda. Oppure all'azienda. Sì. Un esempio, tutti ci ricordiamo i 56 kilobit del modem di metà anni 90, ma ci ricordiamo anche agli inizi degli anni 2000 e quindi 5-6 anni dopo le prime ADSL 640 kilobit, 10 volte la banda più o meno dei 56K. Oggi riusciamo a sostenere questa crescita? C'è un modo solo per sostenerla, ovviamente, secondo me, è quello di portare l'infrastruttura in fibra ottica il più vicino possibile a chi la dovrà utilizzare alla fine, e quindi sia l'azienda o quindi, il mercato domestico. Quindi sei d'accordo con chi dice, sostiene che il doppino di rame sta, diciamo, dando le ultime capacità in questi anni. Poi non parliamo magari del prossimo anno, ma parliamo da qui a 5-10 anni. Io ho un'idea molto chiara. Quando un paese, perché qui quello che dobbiamo fare, credo, in questo momento storico in Italia, è un ragionamento dello sviluppo del sistema paese. E quando un paese pensa alle infrastrutture, non può certo pensare a un anno, due o cinque, ma deve fare ragionamenti di lungo termine, quantomeno a 20 o a 30 anni. E chiunque sostenga che tra 20 o 30 anni il doppino di rame possa essere ancora sufficiente, credo che non sappia di che cosa parla. Quindi sì, Non ho dubbi che la soluzione è la fibra ottica. Dalla fibra ottica ripartiremo e vi aspettiamo tra poco. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. All'inizio abbiamo dedicato alcuni minuti ai 30 anni del Mac, ma visto che siamo il Sole 24 Ore, diamo anche qualche informazione di carattere finanziario. Allora, il 24 gennaio 1984, quando la Apple introdusse sul mercato il Macintosh, l'azione a Wall Street valeva $3.41. Questo fine settimana, cioè questo venerdì, l'azione della Apple valeva poco più di $556. Però questo significa, ci dice l'agenzia di informazione Radiocord Sole 24 Ore, che in questi 30 anni i titoli della Apple sono cresciuti del 16.210%. C'è anche chi ha fatto un conto interessante. Allora, sappiate che il primo Macintosh costava $2.500, quindi precisamente 2.495. C'è chi si è domandato: ma se un cliente americano, invece di comprare un computer, avesse investito quel denaro in titoli della Apple, quanti soldi avrebbe oggi? $400.000. Bisognerebbe vedere quanto, adesso questo non lo so, quanto può valere uno dei primi Mac, ma non penso che valga $400.000. Magari uno dei precedenti computer dell'Apple sì, che erano un po' più rari. Vabbè, comunque questo è un dato sicuramente interessante. Siete all'ascolto di 2024, questa è Radio 24, io sono Enrico Paglierini, stiamo parlando di una infrastruttura oramai necessaria come l'acqua, come il gas, come l'elettricità per lo sviluppo del nostro paese, cioè una rete in fibra ottica per

Il primo passo è vedere che cosa già c'è e scopriremo che in almeno 40 città italiane, tipicamente concentrate al nord-est dell'Italia, centro-nord Italia, ci sono già molte infrastrutture disponibili. Sì, questo lo ricordo io spesso a 2024, ci sono un sacco di città dove c'è fibra ottica addirittura, perché in alcuni casi magari ci sono solo le canaline, ma addirittura c'è fibra ottica che è stata posata dalla pubblica amministrazione che passa davanti alle case dei cittadini, alle aziende degli italiani, e io c'ho un sacco di persone che mi scrivono e mi dicono: so che c'è la fibra ottica davanti alla mia azienda, ma non la posso utilizzare perché la pubblica amministrazione o non la utilizza, o la utilizza solo per sé, oppure la utilizza a cifre folli, pazzesche, che sono fuori dal mercato. Scusa l'interruzione. Secondo passo. Una volta realizzato il catasto delle infrastrutture, ma possiamo fare una cosa banale? Ogni volta che una pubblica amministrazione spende denaro pubblico per scavare, perché deve posare un'infrastruttura dell'acqua, una del gas, una dell'energia elettrica o quant'altro, o comunque quando viene aperta una strada, possiamo informare tramite il catasto gli operatori di telecomunicazioni, o comunque anche senza informarli andare a costituire, quindi andare a realizzare l'infrastruttura di telecomunicazioni mettendo semplicemente un pacco di tubi vuoti? Il grosso del costo è lo scavo, non mettere lì dei tubi vuoti. Cioè, quando si fa un marciapiede, esatto, ci si infila anche un tubo vuoto. Ci si infila anche un tubo vuoto. 3 centesimi al metro. Che non costa, so. Costa a esagerare forse 1 euro al metro. E qui abbiamo fatto il secondo passo, quindi catasto, coordinamento nel momento in cui c'è un'apertura delle infrastrutture. A quel punto, secondo me, ci accorgeremmo che molta dell'infrastruttura è già esistente, molta dell'infrastruttura si può realizzare a costo quasi nullo sfruttando la concomitanza degli scavi. Quindi, per rispondere infine alla tua domanda, secondo me non credo che il progetto per connettere tutte le abitazioni italiane potrebbe superare il costo dei 15 miliardi. Ricordo, perché mi sembra importante, che tu dici abitazioni, aggiungo anche aziende. Certo. Cioè abitazioni e aziende. Corretto, perché quando ho parlato delle 24... Anzi, io partirei dai distretti industriali. Quando ho parlato dei 24 milioni di doppini telefonici, contengono entrambi, aziende e utenze domestiche. 15 miliardi. Esatto. Riprendiamo tra un minuto. 2024. Visto che c'è ancora, purtroppo, anche nel nostro paese, chi pensa che internet non sia una cosa buona, beh, speriamo che da questa settimana queste persone cambino idea, visto che anche il Papa, la Chiesa è sempre molto attenta ai cambiamenti sociali e tecnologici, anche il Papa ha detto: internet è un dono di Dio. Cosa importante, ma del resto, insomma, la Chiesa e il Vaticano da tempo si erano accorti di questa evoluzione, e quindi tutto il mondo cattolico si è spostato e si sta spostando anche verso questa nuova destinazione. Però, insomma, è una cosa importante dirlo esplicitamente. Stiamo parlando della infrastruttura oramai necessaria per lo sviluppo del nostro paese, un'infrastruttura che porti la fibra ottica in tutte le aziende e in tutte le famiglie. Abbiamo ipotizzato, lo ha ipotizzato Simone Bonannini, che è l'amministratore delegato di Interroot, che oggi è nostro ospite, possiamo ipotizzare che questa infrastruttura costi 15 miliardi di euro. Alcuni potrebbero dire: ah, una cifra incredibile. No, è una cifra bassissima. Allora, pensate che il MOSE è costato tra i 4 e i 5 miliardi. Allora, opera diciamo di dubbia utilità. Non esagero nel dire che è inutile, però vedrete quante volte il MOSE, ma lo sappiamo benissimo, entrerà in funzione pochissime volte, e un sacco di giorni Venezia dovrà soffrire acqua alta. Quindi io dico, con 3, esageriamo, 4 MOSE, possiamo costruire una rete in fibra ottica che vada ovunque in Italia. Possiamo prendere come esempio anche dei pezzi di autostrada, o addirittura ricorderete che ho parlato recentemente del CIPE, che ha approvato il progetto di trasformazione in autostrada della E45, un'opera da 10 miliardi, certo pagata da privati, ma lo Stato poi ci rimette in mancate tasse che non vengono percepite per un tot di anni. Insomma, stiamo parlando di priorità. Se la politica sceglie le giuste priorità per lo sviluppo di questo paese, questa è un'opera che portiamo a casa con facilità, estrema facilità. Tuttavia, faccio domanda a Bonannini, non stiamo parlando di un

Bene, grazie a Simone Bonanini per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buon lavoro a te. E comunque la cosa importante è che si dibatta di questo tema, si discuta di questo tema che è molto molto importante. Parliamo di tante cose poco utili o inutili e invece bisognerebbe spendere tempo per parlare di questo, perché poi questa non è una infrastruttura che si fa in poco tempo. Anche il setup del progetto non è sicuramente una cosa semplice e facile. La prossima settimana dovrebbe essere non pubblicato ma consegnato definitivamente il progetto Caio. Sapete che Francesco Caio è stato nominato dal governo, dal presidente del consiglio responsabile per lo sviluppo dell'agenda digitale in Italia, e dovrà consegnare un rapporto per dare alcune indicazioni per lo sviluppo della fibra ottica in Italia. Quindi avremo presto anche l'occasione di incontrare Francesco Caio per farci raccontare che cosa c'è scritto in questa serie di consigli che poi la politica dovrà far propri, mediati e consigliati anche da altre posizioni, e poi metterli finalmente, speriamo, in pratica. Abbiamo sicuramente dato un'idea interessante, io la trovo un'idea molto interessante quella che ci ha raccontato Simone Bonannini. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, scriveteci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Radio 24, il pomeriggio del sabato tra le 15 e le 16, in replica la domenica sera tra le 23 e mezzanotte. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024. 31 seconds in.